Catarina, non te scordar, Catarina.

essa aiuta la capacità e chiusa poi è tornata poi è venuta sta sempre qua la capa vota vota attorno a te tu cuore canta sempre del tuo reno scusa mai me Yamba, yamba, coppa yamba, yamba, yamba, coppa yamba, puli puli puli, puli puli puli, coppa yamba, puli puli puli. Oh! Sire, l'uscio di schiuda al gran sole, di già con le rose spedita, carezza dei fiori lo stuore, commosso da un fremito arcano, intorno al creato già par, e tu non ti desti e di nevare. Sto qui dovente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore. Non sai la luce manca.

tante cose. Se il vento lieve d'accarezza un profumar di giovinezza mi fa tremare. La